personaggio a caso. Niente di offensivo, niente di personale. Ti ho conosciuta quasi per caso. Quella sera ero schivo, mi sentivo un po' male. Ascoltavamo un disco di Celentano. Questo particolare non cambia lo stato delle cose, ma la perizia e l'insana passione con cui ti dedichi alla costruzione di scatole di cartone. Questo sia determinante. Sorgono spontanee altre domande. Ma cosa sono? Ma cosa sono quelle pantofole a forma di elefante? Che ci faccio qui? Ammiro la tua collezione di scatole di cartone. Di scatole di cartone. No, non lo voglio il tuo numero. Siamo a posto così. Lascia stare. Se serve. Dai, nel caso. Se serve, ripasso da qui. Passione incontra l'idea, quando la logistica si è fatta dea, quando la passione la incontra amore ai tempi dell'Ikea. Il netto senza tara è bassa marea, tutto ciò che si distrugge poi si ricrea. Il netto senza tara è amore ai tempi dell'Ikea. E Cuba chi era per lui Enea, Euridice getta uno sguardo ad Orfea. E Cuba chi era per lui amore ai tempi dell'Ikea. L'immobiliarismo è una panacea, un mantra che si schiude come ninfea. L'immobiliarismo è amore ai tempi dell'Ikea. Non ti amo però, forse ti cercherò quando avrò bisogno di una scatola. Casa mia è piena di cose piccole che si perdono facilmente. Quando avrò finito le mensole ti chiamerò, quando dovrò traslocare ti cercherò. Ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Non te lo dirò.